Savonarola, il frate che... Firenze. D'altra parte, questa è la pronuncia originale del titolo di questo programma, che in due stagioni è arrivato forse alla fine. Un programma prodotto per Radio Big World, ma non scritto da Radio Big World, perché in realtà il cuore della trasmissione sono le prose scelte di Pasquale Villari, che le scrisse ormai tanto tempo fa. E siccome io le ho lette di recente e per parecchie settimane, lasciatemi fare qualche riflessione. In primis, Villari fu sostanzialmente contemporaneo di Manzoni e in quella Firenze anche capitale che si inventò la lingua italiana odierna e se la inventò di sana pianta dopo l'unità, proprio partendo dal fiorentino di Manzoni e in un luogo vicino a dove venne bruciato Savonarola. Per di più, Villari era massone, pure di un certo livello, pertanto non è poi così complottistico pensare che Villari, nello scrivere dell'epoca di Savonarola, manzonianamente scriveva della sua e, vista l'appartenenza spirituale, probabilmente ha inzeppato di simboli il suo libro e di qualche tecnica subliminale, anzi per mantenerne il linguaggio qualche tecnica esoterica. Dico questo perché effettivamente il suo testo, pur a distanza di un secolo e mezzo, ancora colpisce nel segno e, alla fine della lettura, si finisce per simpatizzare con il Savonarola, per stizzirsi con la Chiesa di Roma, per invelenirsi con i fiorentini. E si aderisce alle tesi dell'autore, anzi alle sue intenzioni, che forse queste erano. D'altra parte, fu grazie anche a questi libri che Villari divenne ministro, quando essere ministro significava parecchio e molto più di ora, pertanto servirono a lo scopo. Ma io non sono lui e i miei tempi non sono i suoi e non sono neanche massone, quindi a me troppa simbologia fa venire il mal di testa. Su una cosa però la lettura di Villari mi ha fatto riflettere. In Toscana, è vero, c'è una certa nostalgia per i tempi di cappa e spada e lo si vede ovunque. Non c'è cittadina che si rispetti qui da noi che non abbia una qualche festa medievale in programma per l'anno in corso. Per non parlare dei più famosi giochi di piazza, quali il Palio a Siena, il Saracino ad Arezzo, il Ponte a Pisa. Celebrano tutti una Toscana premedice antifiorentina, perché Medici e Firenze per molte comunità fanno rima con fine dell'autonomia e dell'indipendenza e inizio delle tasse. Ne è riprova il fatto che il gioco fiorentino, cioè il calcio, è un gioco rinascimentale e di tale foggia sono i costumi che i cosiddetti calcianti indossano. Non medievali, rinascimentali, cioè l'apice della magia di Firenze. Per inciso, il calcio era il gioco in cui era campione Piero de' Medici e, siccome è un gioco tradizionalmente giocato da galeotti, oggi si direbbe pluripregiudicati, si capisce di che pasta fosse Pierino e in questo Villari non esagerava. Ragion per cui i riferimenti medievistici che imperversano per la Toscana sono sostanzialmente propagandistici e dunque fuorvianti. Fuorvianti anche perché fanno pensare subito ai Guelfi e ai Ghibellini, veri o mitizzati che siano, e fanno cadere nella trappola dualistica dell'affibbiare ai mille rancori irrisolti che covano ancora sotto le ceneri della modernità l'etichetta di banale duello tra parti avverse. Papa o imperatore, Montecchio o Capuleti, Peppone o Don Camillo. Come se in Toscana ci fosse una continuità di conflitti tribali che ha solamente cambiato pelle con lo scorrere delle generazioni. Il passaggio è breve da Guelfi e Ghibellini a fascisti e comunisti o a democristiani e atei materialisti, ossia propaganda divide e timpera. Come mai l'imperatore pur Ghibellino restava cattolicissimo e Firenze Guelfa faceva spesso guerra al papato? I conti non tornano. Si è teso a banalizzare il tutto in uno scontro tra clericali e anticlericali ante litteram, quando palesemente non è così. Perché i Guelfi e i Ghibellini ebbero le loro ragioni di essere in logiche antiche e dimenticate e per molti aspetti oggi incomprensibili, che avevano la loro unica ragione d'essere negli uomini e nelle credenze di quei tempi, che ormai però sono morti e sepolti da secoli. Soprattutto in Firenze, dove invece è ancora convinzione che esistano queste due fazioni, questi due modi di pensare, ed è un luogo comune, diffusissimo, non solo in Toscana, ma soprattutto fuori, dove ormai ormai la bufala è diventata top. Un po' come i Vicentini Magnagatti. E poi uno di qui raccontò in televisione che fino a dopo la guerra i gatti si mangiavano anche da noi e lo buttarono fuori. Insomma, Guelfi e Ghibellini sono più vicini alla Firenze romana di quanto non lo siano alla Firenze granducale e alla Firenze dei nostri giorni. Una Firenze odierna che ha una matrice differente da quella di Cacciaguida, Farinata e Dante. E questa matrice è proprio il Savonarola, che non era fiorentino per inciso. Solo nell'ottica di Piagnoni Arrabbiati, Bigi e Palleschi, Compagnacci e Frateschi si riesce a leggere con chiarezza quei tratti oscuri e sfuggenti della fiorentinità anche attuale. Per esempio la onnipresente ostilità nei confronti delle istituzioni religiose prevalentemente cattoliche, che portò facilmente fiorentini e toscani nelle braccia dell'illuminismo, dell'anarchismo e poi del comunismo all'italiana. La Toscana fu il primo stato al mondo ad abolire l'Inquisizione. Gaetano Bresci, l'anarchico che uccise Umberto I a Monza, era di Prato e negli anni 60 nei quartieri popolari e periferici fiorentini non era insolito trovare preti comunisti che, in barba a Madre Chiesa o al Papa stesso, facevano i funerali ai suicidi o sposavano gli scomunicati, e cioè i tesserati del PC. Storia vera! Ma anche il borghesissimo Don Milani era fiorentino e per predicazione e per sorte mutatis mutandis molto vicino al Savonarola. Un piagnone post litteram in questo caso, e figlio di una cultura piagnona. Come spiegare il fatto che in una città socialista, al massimo eurocomunista, ma anche massona per eredità lorenese e aristocratica per eredità medicea e quindi poco incline al cattolicesimo, come spiegare un Giorgio Lapira sindaco, cattolicissimo e democristianissimo, ma ancora ricordato e amato? Puri e duri sono i cattolici da queste parti, sostanzialmente borghesi, dediti a pratiche pietistiche anche piuttosto vistose, e fustigatori di costumi, conservatori all'esterno ma mobili all'interno, molto mobili, e non è raro che una chiesa piena al cambio di prete o di generazione si trasformi in una chiesa vuota. Fuori da quelle chiese ci sono gli altri che della religione non gliene importa un fico secco e che chiedono solo di essere liberi fino al parossismo, di fare i loro interessi, tanto per il bene alcuni quanto per il male altri. E non lo dico io, lo osservava il Granduca Pietro Leopoldo nei suoi innumerevoli viaggi in Firenze e nel resto della Toscana. E i Lorena vennero quasi 200 anni dopo Savonarola. Ma nulla era cambiato da allora, e ben poco, chissà, è cambiato oggi. Quell'uomo, un ferrarese, ha plasmato Firenze in maniera tale che la sua opera sopravvive praticamente intatta nonostante tutti gli strati storico-culturali che poi le si sono pian piano accumulati sopra. Quello mediceo, quello lorenese, quello risorgimentale, ma anche quello unitario che la vide capitale di un paese enorme, e quello contemporaneo prima e dopo l'ultima guerra. Sotto la statua a Cosimo il Vecchio campeggia la scritta Pater Patrie, ed è corretto. Senza Cosimo, Firenze e la Toscana che conosciamo tutti non sarebbero neppure mai esistite. Ma quella scritta andrebbe messa anche sotto alla statua del Savonarola, perché senza di lui Firenze e la Toscana non sarebbero mai divenute quel che sono state e quel che sono adesso. In questo Villari è manzoniano. Manzoni scriveva dell'Italia barocca per parlare dell'Italia dei suoi tempi, che è anche l'Italia di oggi. Villari scriveva della Firenze del primo Rinascimento per parlare della Firenze dei suoi tempi, che è anche la Firenze di oggi. Se vi siete persi qualcosa, beh, vi tocca ripartire dall'inizio. Serio, post mortem. Dopo la morte del Savonarola le cose mutarono con tale rapidità che gli arrabbiati non ebbero tempo neanche a pensare di restringere il governo, ma invece si dovettero persuadere ben presto non esservi altro modo né altra politica per salvare la Repubblica che quella consigliata dal frate. Infatti Piero e Giuliano dei Medici già si avvicinavano a Firenze sostenuti da un forte esercito veneziano. Bisognava quindi unirsi coi piagnoni a difendersi da tanti pericoli e tanti nemici. Per fortuna il duca di Milano, sempre più geloso dei veneziani, aiutava adesso a scongiurare questi pericoli, ma chi poteva affidarsi alla sua amicizia e riposare nella sua fede? Quanto ad Alessandro Borgia, che aveva dato così grandi speranze e fatte così larghe promesse per ottenere la morte del Savonarola, fu singolare il vederlo, non appena raggiunto il desiderato fine, abbandonarsi ciecamente all'impeto delle sue più sfrenate passioni. Pareva quasi che la morte del povero frate avesse tolto ogni freno alla libertà libidine all'ambizione del Papa e di suo figlio, il Duca Valentino. Faceva intime alleanze con turchi ed ebrei, cosa allora inaudita. Poneva in vendita in un solo anno 12 cappelli cardinalizi. La storia degli incesti e pugnali dei Borgia è troppo nota per fermarci a parlarne minutamente. Fine principalissimo del Papa era di fondare al figlio uno stato in Romagna, e il Duca Valentino era così pieno di questa ambizione che già meditava di allargare la sua potenza sopra tutta Italia, ed il primo passo voleva farlo in Toscana. Per queste ragioni era intento a suscitare alla Repubblica sempre nuovi pericoli. Ora faceva sollevare Arezzo, ora minacciava di venire a rimettere Piero dei Medici, e continuamente scorreva e predava la campagna, onde i fiorentini dovettero accordarsi a dargli 36.000 ducati annui sotto nome di condotta. Né questo impediva che di tanto in tanto venisse con vari pretesti a scorrere e saccheggiare il territorio fiorentino. Così i Borgia adempievano le tante promesse fatte alla Repubblica per ottenere la morte del Savonarola. Gli arrabbiati finalmente si persuasero che a volersi difendere dai Medici e dai Borgia non v'era altra via che l'alleanza francese e l'unirsi di buona fede coi Piagnoni. Seguirono allora interamente la politica consigliata dal Savonarola, e le cose incominciarono subito a procedere con ordine e fortuna assai maggiore che non si sarebbe sperato. Se non che l'ambizione in Luigi XII non era punto minore che in Carlo VIII, e ben presto dovevano cominciare le sventure dal Savonarola predette all'Italia. Chi non conosce la storia di quelle guerre fra tedeschi, spagnoli, svizzeri e francesi che per tanti anni desolarono le nostre contrade mettendole a sacco, a ferro ed a fuoco? Fino a che la vittoria rise alle bandiere di Francia, la Repubblica Fiorentina si poté mantenere viva in mezzo allo scompiglio universale. Ma quando, per la morte del giovane ed immortale Gastone di Foix, cominciò a cedere la fortuna dei francesi, l'ultima ora della Repubblica era già suonata. Nel settembre del 1512, infatti, un esercito spagnolo, senza incontrare ostacoli, rimetteva in Firenze i Medici. La guerra e le sventure si allargarono intanto su tutta Europa. La voce di Lutero aveva già messo lo scisma nella Chiesa. I roghi e patiboli, invece di spegnerle, davano alimento alle nuove dottrine, e così cominciavano le battaglie religiose. La Chiesa, l'Italia e il mondo erano flagellati, ed in ogni nuova guerra, in ogni saccheggio, in ogni eresia, i Piagnoni vedevano un'altra verificazione delle profezie del Savonarola. Nelle sventure e nella oppressione si mantennero sempre più viva l'antica fede. Quando poi si vide che Clemente VII ascese al pontificato, che gli eserciti di Carlo V assediarono e posero a sacco la città eterna, che le chiese divennero stalle di cavalli e bagordi, allora veramente parve ancora ai più increduli che tutte le predizioni del frate si verificassero per filo e per segno. Si cavò fuori quell'ultima profezia fatta al Niccolini, la quale, copiata e letta con grande maraviglia, girava per le mani di tutti. Ognuno andava a rileggere le prediche, mostrava quei mille passi nei quali le cose che seguivano erano state tante volte predette. Il partito dei Piagnoni, come per miracolo, si trovò di nuovo padrone. I Medici, privi d'aiuto esterno e con tanti nemici interni, si diedero alla fuga. Venne subito proclamata la Repubblica, Cristo fu eletto re di Firenze, fu ordinata la milizia cittadina, e tutti si apparecchiavano questa volta a mantenere la riacquistata libertà o a morire in modo degno di essa. La nuova Repubblica sostenne infiniti assalti, ed ognuno conosce come ben presto dovrà accadere, ma difesa dal genio di Michelangelo, dalla destra del Ferruccio, dal cuore di tutto un popolo, ebbe una fine gloriosa quanto i giorni più belli del suo fiorire. Ed in tutto questo meraviglioso movimento San Marco era tornato a essere il centro dei fidi amici della patria e della libertà. I discepoli del frate, le sue profezie, le prediche, le immagini di lui ispirarono quei valorosi e magnanimi cittadini a difendere la Repubblica sino all'ultima ora. Così la storia dei veri seguaci del Savonarola finisce solo con la libertà fiorentina. La dottrina religiosa noi vedemmo che si mantenne sempre ed inalterabilmente cattolica, quando Roma fu assediata da legioni di protestanti e quando la Repubblica Fiorentina sostenne la guerra contro al Papa che l'assaliva e voleva distruggerla. Allora i Piagnoni non si unirono già mai al partito della Riforma, anzi, i pochi protestanti che si trovavano in Firenze, e fra questi il celebre Antonio Brucioli, furono bersaglio dell'ira popolare. Questo era un altro segno assai evidente che la dottrina del Savonarola differiva profondamente da quella quella di Lutero. Non di meno le accuse e le apologie non ebbero mai fine e fra tante discussioni il giudizio restò in Italia lungamente sospeso. Papa Alessandro, appena morto il Savonarola, aveva proibito severissimamente i suoi scritti, minacciando la scomunica a chiunque non li riportasse all'arcivescovo. Più tardi, mutato consiglio, ne permise la ristampa e così sarà andato fino all'anno 1558, quando Paolo IV, radunata la congregazione dell'Indice, volle che se ne facesse un minuto e diligente esame. La disputa fu lunga e solenne. Alla lettura dei brani, che scelse una commissione di 4 cardinali, il Papa montò in tal furore che, battendo i piedi a terra, gridava: «Questi è Martin Lutero! Questa è dottrina pestifera! A che ve ne state, monsignori reverendissimi?» Ma dopo un esame più maturo anche gli dove cedere. Solamente il dialogo della verità profetica e 15 prediche furono sospese. Tutto il resto si poté leggere liberissimamente. I seguaci del Savonarola continuarono a professarsi tutti e sempre cattolici. San Filippo Neri e Santa Caterina dei Ricci lo adorarono come santo. Benedetto XIV lo giudicò degno d'essere dichiarato tale. Molte delle sue opere furono adottate come libri di insegnamento nelle scuole cattoliche. Ed invero, chiunque le legge deve assolutamente convincersi che egli restò sempre fedele ai dommi della sua religione, che non mirò giammai a dividere l'unità della Chiesa, ma anzi a restringerla sempre più fortemente. Non di meno v'è in lui uno spirito di novità che noi non vogliamo nascondere, anzi fu scopo principale del nostro lavoro metterlo in luce. Il Savonarola fu primo a levare in alto e spiegare agli occhi del mondo quella bandiera che molti chiamano della Rinascenza. Fu primo a sentire nel secolo XV che una vita nuova invade e ridesta il genere umano, onde si può chiamare davvero il profeta del nuovo incivilimento. Ma chi lo fa capo di un partito, di una setta, di un sistema si inganna di gran lunga. Non conosce né il Savonarola né il suo tempo. La Rinascenza non è ancora la civiltà moderna, né è come il presentimento. Essa ebbe un carattere universale, ma indefinito ed indeterminato. Gli uomini di quel tempo prevedono una nuova, una più vasta sintesi del genere umano e si sentono più vicini a Dio. Il sangue batte nei loro polsi con l'ardore della febbre, le idee s'alternano con la rapidità del delirio e si obbediscono a una forza maggiore di loro stessi che li spinge a solcare un mare ignoto per trovare una terra sconosciuta ma indovinata. Cristoforo Colombo li personifica e li spiega tutti. È un tempo di eroi piuttosto che di pensatori. Chiedere ad essi cosa vogliono, dove vanno, è stolto. Sanno solamente che camminano, sentono che nel loro corso si trascinano dietro il mondo, null'altro. Né di tale inconsapevolezza dobbiamo noi farne maraviglia. Questo è anzi il loro carattere, il loro merito. Rompono le tenebre, aprono le vie del nuovo cammino non per forza di ragione ma per forza di volontà e di fede. Hanno la mente dei profeti, il cuore degli eroi e il destino dei martiri. Il mondo infatti si spaventa di questa nuova razza di titani che sorgono a combattere i vecchi idoli e comincia subito ad opprimerli, ma poi ne adora i vestigi e corre dietro ai loro passi. Allora la Rinascenza dà luogo alla civiltà moderna, la sintesi si scioglie nell'analisi, nascono le scuole di sistemi. Galileo, Bacone, Cartesio vengono a raccogliere la messe già seminata. Ma che cosa avrebbero fatto questi sovrani e tranquilli intelletti se quelle grandi e generose anime non avessero con l'impeto loro già squarciato le tenebre, non avessero col loro martirio già spianato il cammino? Il dramma di cui fummo spettatori nella vita del Savonarola, dopo la sua morte, si estende e diviene quasi il dramma di tutta Europa. Noi vediamo infatti per ogni dove la medesima lotta. Sono come due mondi a contrasto. In uno è lo splendore dell'arte, della scienza, della fortuna, ma tutto ciò non basta a tenerlo in vita perché esso è corrotto nell'anima. Accanto però v'è un pugno d'uomini perseguitati ed oppressi che si tengono uniti e nella loro unione formano un altro mondo. I loro discorsi sono rozzi, i loro ragionamenti sono strani, i loro libri sono scorretti, ma la sorgente del loro genio è inesausta perché scaturisce dal cuore, dove sentono quella forza viva che mai non si spegne, che trova in se stessa sempre nuovo alimento e fra i pericoli ed i roghi ringiovanisce. Essi cadono, è vero, ma il loro sangue feconda migliaia di seguaci, le loro idee divengono la fede del genere umano e fondano la civiltà moderna. La società si rinnova, è salvata dal coraggio e dal martirio di pochi. Il mondo progredisce per forza di virtù ed eroismo e noi ci persuadiamo che quando il genere umano deve dare un gran passo nel suo eterno cammino, la provvidenza non apre il santuario della verità a chi ha solo una mente elevata e un ingegno acuto, ma agli uomini di cuore purissimo e d'animo generoso. Tale fu il carattere della Rinascenza e due italiani primi la iniziarono. Il Colombo apriva le vie dei mari, il Savonarola quelle dello spirito. Quando l'uno saliva sul Pergamo, l'altro già spiegava le vele al vento e spingeva l'ardita prora fra le acque d'un mare sconosciuto. L'uno e l'altro si credette mandato di Dio a diffondere il cristianesimo sulla terra. L'uno e l'altro ebbe strane visioni che lo ridestavano alla sua opera. Ambedue toccarono con la mano un mondo nuovo senza poterne ancora conoscere l'immensità. L'uno ne fu compensato con le catene e l'altro col rogo. E ora, chi vorrà più domandare al Savonarola se egli sostenesse il servo arbitrio di Lutero o la predestinazione di Calvino? Egli abbracciava un mondo assai più vasto, mirava a un termine assai più lontano. Fu primo nel suo secolo ad avviare l'umanità verso quella meta che oggi ancora non abbiamo raggiunta, ma verso cui siamo diretti con raddoppiato sforzo. Egli voleva mettere in armonia la ragione e la fede, la religione e la libertà. La sua opera si connette al Concilio di Costanza, a Dante Alighieri ed Arnaldo da Brescia, iniziando quella riforma dello spirito che fu l'eterno desiderio dei grandi italiani. E quando questa riforma, che è già divenuta una convinzione universale, sarà penetrata anche nella realtà dei fatti, l'Italia sarà nuovamente alla testa di una civiltà rinnovata. Forse in quel tempo sarà meglio compreso il carattere e la vita di colui che per questa causa sostenne un glorioso martirio.